L'obbrò della lavatrice, uno spettacolo migliore di tutti quei programmi alla televisione. Manda in onda i miei pensieri, senza tagli o censure, li trasmette senza problemi, quel vortice di calze, maglie e maglioni. Però vorrei che tu li vedessi con me. Però con me le nostre pistole sono caricate a coriandoli. Pensiamo sempre solo a renderci felici, quelle degli altri invece hanno proiettili di grosso calibro. Sembra che non pensino ad altro che a ferirsi. Vedi che meglio di loro. Vedi che io e te siamo meglio di loro. Mi ha tradito sul più bello, ha deciso di scioperare, di fulminarsi proprio sul finale. Adesso resto sveglio, seduto sul bordo del letto, a fissare il buio, a non distinguerlo dal muro. Però vorrei che tu fossi seduta con me. Però seduta con me. Ho dovuto comprare un comodino nuovo, il vecchio non ha retto, il peso dei sogni nel cassetto. Li tenevo lì nascosti, un poco per proteggerli, un poco per sicurezza, un poco per conservarli al meglio. Passata di qua, per quando saresti ripassata di qua. Io e te saremo sempre meglio del 99% di tutti gli altri. Tu non mi facevi pensare a tutte le mie ansie, a tutti i miei problemi, all'autostima sotto i piedi, che mi ritrovo e che non so come affrontare, che mi ritrovo e che non so come affrontare. Grazie per tutti quei momenti nei quali mi hai capito. Grazie per tutti quei momenti nei quali mi hai sorriso. Grazie per tutti quei momenti nei quali mi hai capito. Grazie per tutti quei momenti nei quali mi hai sorriso. Grazie per tutti quei momenti nei quali mi hai capito. Grazie per tutti quei momenti nei quali mi hai sorriso. Grazie per tutti quei momenti nei quali mi hai capito. Grazie per tutti quei momenti nei quali mi hai sorriso.